La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi e 34 secondi in diretta di Studio di Milano per questa versione di Oscar del martedì 13 dicembre 2016. Ovviamente Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Vi ricorda l'indirizzo della versione di Oscar @radio24.it. L'argomento della puntata, parleremo di liberalizzazioni perché è uscita l'edizione annuale che misura l'indice delle liberalizzazioni nei 28 paesi europei in 10 diversi segmenti di mercato in termini comparati, cioè in maniera tale da consentire di capire ogni anno chi ha liberalizzato di più, chi meno in questi 10 settori del mercato e di capire anno dopo anno qual è il trend, cioè i paesi che aprono di più, quelli che aprono di meno, quelli che addirittura fanno passi indietro chiudendo segmenti del mercato alla concorrenza. Vi dico subito, prima di entrare nella presentazione con una breve introduzione e presentandovi poi l'ospite che ci parla di questo rapporto, che come tutti gli anni e da diversi anni a questa parte, dal 2007 a oggi, è redatto all'Istituto Bruno Leoni, una sola considerazione di aggiornamento flash giornalistico sui fatti del giorno. Sapete che a fine mattinata il Presidente del Consiglio Filippo Gentiloni si è recato a Montecitorio per le considerazioni di apertura del dibattito sulla fiducia. Vi segnalo un unico commento che mi ha molto colpito per essere un po' abrasivo, quello di Aldo Cazzullo, che trovate sul sito del Corriere della Sera, e il commento di Cazzullo è 20 minuti di sussurri nell'aula di Montecitorio, un po' spettrale perché mancavano i rappresentanti di diversi forze politiche, mancavano quelli dei 5 Stelle, che sono numerosi come sapete, e mancavano quelli della Lega, mancava la pattuglia di Ala, cioè di Verdini, erano anche assenti diversi esponenti di Forza Italia, Fratelli d'Italia e così via. Ma insomma, Gentiloni ha svolto una esposizione totalmente piana, non un solo applauso. Quindi questi 20 minuti di sussurri, come li ha definiti Cazzullo, sono un pochino lo stile dell'eloquio, senza polemiche, nessuna polemica nei confronti di nessuno da parte di Gentiloni, molta difesa e affermazione di continuità del governo Renzi. L'ha definito un governo di responsabilità quello che guida, lasciando al Parlamento poi, appunto importante, la competenza e la responsabilità poi di ciò che bisognerà fare in materia di legge elettorale dopo che si sarà pronunciata la Corte Costituzionale. Ma insomma, lo slogan è volare non basso, bassissimi per così dire, evitare ogni tipo di asperità e riferimento a qualunque vicenda o interpretazione di dati, fatti, scelte che possano portare a qualunque tipo di polemica. Beh, insomma, se facciamo il paragone con i 1000 giorni del Presidente del Consiglio Renzi, che ci ha abituato invece a foga, passione, dito puntato, non ritrarsi mai dalla polemica, veramente un altro universo, non un altro mondo. Comunque vedremo. Sapete tutti che, fine di questo flash, il punto vero è capire non alla Camera, dove la maggioranza è amplissima, ma al Senato, quando si andrà a contare la maggioranza vera, senza i rappresentanti di Ala, di Verdini, sempre che non ci siano sorprese poi di immissione da parte dei loro rappresentanti con i sottosegretari, ma vedremo a quanto si ferma il pallottoliere al Senato, perché questo sarà poi la misura della, tra virgolette, forza relativa, che influirà anche sulla durata di questo governo. Gli esponenti di Ala, di Verdini, dicono: ti hanno informato male, caro Gentiloni, l'hanno ribadito stamattina, non hai affatto 166 senatori dalla tua. Vedremo, questo vedremo quando si andrà al voto al Senato. Torniamo all'indice delle liberalizzazioni, redatto dall'Istituto Bruno Leoni. Sono 10 i settori in cui si fa questa comparazione, cioè si pesano con degli indici per ciascuno di questi 10 diversi settori del mercato: l'apertura del mercato alla concorrenza, la presenza dello Stato, la presenza di norme distorsive, la presenza di ostacoli all'ingresso di nuovi concorrenti, il peso diretto della mano pubblica. Per ciascun settore sono indicate le modalità attraverso cui si misura, in maniera però analoga, paese per paese, in tutti i 28 paesi europei, l'apertura alla concorrenza. L'apertura alla concorrenza, c'è una vastissima letteratura economica consolidata, aiuta la crescita, uno, e due, diminuisce anche l'opacità e la discrezionalità della pubblica amministrazione, quindi diminuisce il terreno più fecondo per la corruzione. E infatti c'è un saggio nell'indice annuale, nel volume, esattamente quello iniziale che precede le analisi comparate dei 10 settori, dedicato alla corruzione. E ve lo segnalo, cari ascoltatori, perché gli euroscettici troveranno in questo primo saggio anche qualcosa che li potrà interessare, perché in questo saggio non si esclude affatto che il tasso divergente molto basso di alcuni paesi europei di crescita in questi anni di crisi, non si può escludere, dati alla mano, che si deva anche alla subottimalità dell'euro, cioè al fatto che l'euro non funziona, per così dire. Quindi c'è anche questo aspetto che voglio segnalare. Vi dico quali sono i 10 settori e poi andiamo a capire con il nostro ospite come sta messa l'Italia, se sta migliorando o peggiorando e perché in alcuni settori non ci siamo proprio ancora nel paragone internazionale. I settori sono quelli dei carburanti, quindi della produzione e distribuzione di carburanti per autotrazione, il gas naturale, il mercato del gas naturale, il mercato del lavoro, il mercato dell'elettricità, le poste, le telecomunicazioni, il settore delle televisioni e dell'audiovisivo, il trasporto aereo, il trasporto ferroviario, le assicurazioni. Ecco, vi dico solo che il paese con lo score, con il voto più alto, cioè quello più aperto, sommando la media degli indicatori in ciascuno di questi settori, sui 28 paesi europei è il Regno Unito, che raccoglie 94 punti come somma generale. Noi siamo in un pattuglione che sta intorno al sesto posto, perché rispetto ai 94 paesi, ai 94, perdonatemi, punti del Regno Unito, l'Italia si ferma a quota 70, per così dire. Vedremo chi è davanti a noi e perché. In fondo alla graduatoria ci sono paesi come Grecia, Cipro, Croazia, che sono tra i 54 e i 56 punti. Quindi noi siamo, insomma, come devo dire, in una posizione di medio alta classifica. Per parlarcene meglio, per farci capire dove andiamo meglio e perché e con quali conseguenze e chi paga soprattutto, c'è con noi il vice direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, che ringrazio per essersi resa disponibile oggi pomeriggio e di essere con noi, Serena Sileoni. Buon pomeriggio, Serena. Buon pomeriggio. Allora, grazie dell'invito. Da dove vogliamo cominciare? Io direi di spiegare ai nostri ascoltatori se stiamo andando, qual è il trend italiano generale? Il trend non è negativo relativamente agli altri paesi. Vuol dire che il nostro punteggio complessivo migliora rispetto all'anno passato e anche a due anni fa. Questo non necessariamente perché siamo noi che siamo migliorati dal punto di vista della concorrenza, ma in buona parte perché gli altri non sono migliorati o sono retroceduti. Quindi relativamente all'Unione Europea noi stiamo andando meglio ed è dovuto a tutti e due i fattori, un po' perché gli altri vanno peggio, un po' perché noi andiamo meglio. E perché noi andiamo meglio? Noi andiamo meglio sostanzialmente per la buona resa di alcuni settori presi, catturati dall'indice, dove ormai la concorrenza è da qualche anno che è stata aperta e quindi si iniziano a vedere i primi risultati delle dinamiche positive, delle dinamiche concorrenziali. Penso per esempio al settore assicurativo o al mercato elettrico o al mercato del gas naturale, dove le aperture del mercato, le aperture strutturali e normative che si sono avute negli anni passati iniziano oggi a ripagare molto di più di quanto non facevano negli anni precedenti, perché, come dire, il mercato si è messo in moto e si vedono i risultati. Il settore nel quale, i due settori nei quali abbiamo il punteggio più elevato, per effetto appunto fenomeno che ricordavi adesso, cioè dell'insistenza con cui da numerosi anni gli interventi normativi, disciplina del mercato hanno diminuito il peso pubblico, ha aperto la strada rispetto agli ostacoli per i nuovi entranti nel mercato e così via, sono quelle delle telecomunicazioni e dell'elettricità, dove abbiamo il punteggio 2016 è 94 nelle telecomunicazioni e l'elettricità 85, quindi sono i due punteggi più elevati nei 10 segmenti di mercato. Però ne abbiamo alcuni e su cui forse vale la pena di riflettere approfonditamente, perché abbiamo carburanti dove siamo a 44, cioè una specie di disastro, e trasporto ferroviario che dica Mazzoncini, che abbiamo avuto a lungo ospite sabato scorso ai conti della Belva, cioè il capo delle Ferrovie dello Stato e di Trenitalia. Beh, nel trasporto ferroviario siamo ancora a 52, anzi abbiamo pure fatto un passo indietro rispetto al 2015. Allora, per quanto riguarda i carburanti, noi paghiamo la regolazione a livello locale, che è ancora molto più ingessata di quanto non voglia lo stesso legislatore statale. Anzi, fortunatamente il punteggio relativo rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea non è così negativo, sarebbe in assoluto ancora più negativo. Non lo è perché molti altri paesi dell'Unione Europea hanno aumentato le accise, cosa che noi ultimamente abbiamo fatto con più ce l'avevamo già record, quindi insomma. Esatto, però dal punto di vista degli indicatori dello spostamento nel punteggio finale, questo ha pesato a nostro favore, ma in realtà nasconde, come dice appunto te, il problema della quota già altissima di accise. Quindi sui carburanti ci sono le accise storicamente altissime e la regolazione a livello locale, che è molto chiusa. Sulle ferrovie dobbiamo secondo spiegare, perché molti sanno perfettamente, anche i non esperti di trasporto ferroviario, però sanno per esempio che nell'alta velocità noi abbiamo da anni una concorrenza che ha prodotto ottimi risultati, perché ha prodotto, ricordiamocelo, da che c'è la concorrenza sull'alta velocità, numero passeggeri più 65%, tariffe meno 40% in media, quindi ecco gli effetti della concorrenza, cari ascoltatori, non si tratta di essere liberisti tanto per, cioè un'offerta migliore A, B e con prezzi che scendono grazie alla concorrenza per i consumatori. Però molti sanno, per esempio in Francia, col cavolo che l'alta velocità ha la concorrenza rispetto al monopolista statale, quindi com'è che nel trasporto ferroviario rimaniamo così, con un punteggio così basso, addirittura arretrando? Perché la concorrenza si ferma lì, e se invece andiamo a vedere la maggior parte dal punto di vista chilometrico della rete ferroviaria italiana, la situazione è disastrosa. Quindi il trasporto locale, per esempio. Trasporto locale, assolutamente il trasporto locale, il trasporto regionale, il mancato mercato del trasporto regionale, su cui peraltro si muove la maggioranza degli italiani, sì. E si muove anche pendolarmente. E poi l'altro fattore fortemente incisivo è la mancata separazione verticale tra la rete e il principale operatore del servizio, che ancora resta. Su questo diciamo, cari ascoltatori, il paese più avanzato come modello in tutta Europa è la Svezia, che dagli anni 90 ha intrapreso una separazione molto netta, triplice addirittura, e da questo punto di vista quindi è un paese, da questo punto di vista, in questo settore voglio dire, il riferimento. Poi c'è la Gran Bretagna, che dai tempi della Thatcher in avanti con qualche ripensamento ha fatto la separazione verticale. I due modelli sono molto diversi, perché in Svezia c'è una concorrenza nel mercato, in Gran Bretagna c'è una concorrenza per il mercato, però tuttavia sono i due paesi in cui anche in quel caso aumento dei passeggeri, diminuzione delle tariffe, miglioramento dell'offerta. Noi invece viviamo in Italia serena una fase in cui Ferrovie dello Stato non fa mistero di voler prendersi una presenza diretta nel trasporto locale, dove in assenza di gare di questi anni si candida a rilevare un mucchio di società di trasporto locale. E di oggi sui giornali, vi trovate sui giornali di oggi, cari ascoltatori, la notizia che ha rilevato da Astaldi la quota di maggioranza relativa della metro 5 a Milano nel trasporto cittadino della metropolitana, cioè la Ferrovie dello Stato non mi pare, Serena, che abbia molto l'idea di aprire la concorrenza. Anzi, Assolutamente, anche sia dal punto di vista del trasporto regionale che della separazione verticale e diciamo, i famosi annosi problemi delle stazioni su cui ferma il principale concorrente di Trenitalia in alta velocità ne sono state un esempio eclatante di questo voler mantenere la posizione acquisita. Quindi fondamentalmente ecco, sui trasporti, per quanto chi viaggia lungo la linea dell'alta velocità si è reso conto delle virtù benefiche della concorrenza, tutti gli altri cittadini che invece utilizzano, e ripetiamo sono molti di più, il trasporto regionale non se ne sono accorti, ma anzi probabilmente hanno visto dei peggioramenti. Allora, un minuto di traffico e poi spendiamo qualche parola sulle televisioni. Traffico. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta, stiamo parlando del rapporto, l'indice delle liberalizzazioni versione 2016 che ogni anno il Studio Bruno Leoni realizza con i 28 paesi europei, 10 segmenti di mercato in cui per ciascuno si pesa in maniera però analoga, in maniera da rendere comparabile l'apertura del mercato alla concorrenza in quei 10 settori. Tra l'altro una preghiera che ci viene da due ascoltatori con gli sms, Serena Sileoni, bisognerebbe introdurre anche, ci propone in questo caso è un geometra e un commercialista a chiederlo, caro Studio Bruno Leoni, perché non dedichi un undicesimo settore agli ordini professionali? È questo che mi giro la domanda, ecco, perché tra i nostri ascoltatori sono parecchi. In qualche edizione dell'indice ci sono stati gli ordini, un anno dedicammo anche il capitolo introduttivo che quest'anno abbiamo dedicato alla corruzione proprio agli ordini professionali. Cogliamo l'invito per ritornarci. Ecco, per tornarci, è un problema sentito, soprattutto dai giovani professionisti che ci raccontano purtroppo delle condizioni nelle quali sono sottoposti. Allora, televisione. Nella televisione il famoso duopolio, però non dimenticate che da anni ormai il primo operatore in Italia è diventato Sky per risorse. Però qui siamo fermi nella televisione, l'Italia nell'indice comparato IBL liberalizzazioni nel 2016 ha un voto 72, per capirci la Germania sta a 75, quindi insomma più o meno ci siamo, il Regno Unito sta a 91, la Francia sta a 90, quindi se noi prendiamo paesi come la Francia, non so quanti immaginavano che ha una concorrenza nel settore televisivo e degli audiovisivi la Francia di molto maggiore della nostra, però insomma siamo 18 punti indietro. Come mai, visto che Sky l'ha rotto in termini di più risorse oramai sul totale del mercato, il vecchio equilibrio dei duopolisti Rai e Mediaset? Come mai fa rima con Rai? Come mai? Perché noi abbiamo un mercato che non si può considerare mercato, data la presenza appunto e del concetto di servizio pubblico, che è un concetto ormai del tutto vetusto, e anacronistico e anche inutile data l'evoluzione tecnologica del servizio, che non richiede quindi la necessità che qualcuno garantisca il servizio pubblico, e dall'altro di un operatore pubblico che garantisce quel servizio presuntivamente pubblico. Questo diciamo è un bel elefante nella sala, la presenza appunto di un operatore pubblico che peraltro opera in concorrenza con gli operatori privati, perché non dimentichiamoci che la raccolta diciamo le entrate della RAI sono da un lato i nostri soldi come contribuenti, dall'altro la raccolta di pubblicità, come se fosse un operatore, un qualsiasi operatore di mercato. Sì, è vero, mi si dirà ci sono dei tetti per la raccolta pubblicitaria e via dicendo, ma fondamentalmente poco scalfiscono la possibilità appunto di fare incetta di soldi di derivati dagli spazi pubblicitari che vengono fondamentalmente sottratti agli altri operatori. Ovviamente nel mondo, nel fantastico mondo dell'Istituto Bruno Leoni, la soluzione finale è la privatizzazione della RAI, sì, però la vedremo non si sa quando, però noi continuiamo a ripeterlo, Serena. Continuiamo a ripeterlo, e poi se vogliamo, anche visto che non veniamo ascoltati, non siamo gli unici, ma comunque non veniamo ascoltati su questo punto, e sarebbe però anche il caso di insistere su quest'altra anomalia che rende il mercato non aperto concorrenzialmente, che è questa della raccolta pubblicitaria. Cioè, se devo pagare un servizio pubblico come contribuente, allora si lasci agli altri operatori effettivamente il mercato anche degli spazi pubblicitari. Anomalie ce ne sono parecchie, ce ne sono parecchie televisivo, sì, per la presenza appunto dell'operatore pubblico. E naturalmente, ricordo ai nostri ascoltatori, lo sto dicendo sempre in questi giorni, ma perché mi scappa da ridere, che vedrete che al milleproroghe c'è il rinnovo per decreto del contratto, la convenzione del servizio pubblico, che è già stata prorogata due volte dalla RAI dopo la scadenza e verrà protratta. Vediamo, la RAI chiede un altro anno in più. Naturalmente non si ridiscute, si dà per scontato che sia così. Perché, chiedo io, visto che entrano centinaia di milioni in più grazie alla bolletta elettrica per far pagare tutti, contro l'evasione, benissimo, risorse in più, ma perché non ridiscuterlo poi il contenuto del contratto del servizio pubblico e prorogarlo solo per decreto? Ecco, la risposta sta nel fatto che i partiti e i governi, anzi i governi dopo la riforma Renzi, su questo non vogliono sentirne parlare. Ma alcuni ascoltatori dicono, però diteci anche l'effetto del governo Renzi, se e come lo cogliete. Per esempio, alcuni ci chiedono il mercato del lavoro, e qui lascio a Serena Sileoni però una spiegazione che è doverosa perché c'è nel rapporto. Sì, è una spiegazione metodologica. Il rapporto non coglie ancora, per una questione temporale, gli effetti della riforma del Jobs Act, che verranno invece colti nell'indice delle liberalizzazioni 2017, che ovviamente è un indice sul 2016. L'indice 2016 è l'indice sul 2015, per l'anno passato. Per correttezza va detto questo, e altrimenti alcuni sobbalzerebbero nel vedere che dopo il Jobs Act continuiamo a essere bassissimi in graduatoria come apertura al mercato del lavoro, no? Sì, continuiamo a essere bassissimi perché è cristallizzato al netto degli effetti del Jobs Act. Detto ciò, non è dato per scontato che l'anno prossimo, quando potremo verificare i dati, saranno necessariamente positivi. Vedremo, appunto. Nel 2015, per dare un'idea ai nostri ascoltatori, l'apertura del nostro mercato del lavoro era a quota 69 rispetto a 90 dell'Irlanda, rispetto a 90 della Finlandia, rispetto a 81 della Germania, rispetto a 100 del Regno Unito. Quindi eravamo ancora belli rigidi, per così dire. Purtuttavia, complessivamente, diciamoci la verità, forse quest'anno è andata meno peggio degli anni scorsi, o sbaglio? No, assolutamente è andata meno peggio degli anni scorsi. Il dato numerico aggregato è positivo rispetto agli anni precedenti. Perché, cari amici, l'Europa sta frenando in termini generali sulla concorrenza, cioè tutti stanno pensando in questo o in quel settore a rimettere un po' di Stato. Questo è un problema fondamentale, perché è il ritorno allo Stato dei dazi, c'è chi vuole nazionalizzare le banche, eccetera, eccetera. E questo non è un fenomeno, ohimè, solo italiano. Io ringrazio Sanassi Leoni per questa edizione. Trovate sul sito di Bruno Leoni, potete scaricare il PDF, vale la pena di leggerlo. Continuate su Radio 24, appuntamento con me domani mattina, ancora solo senza Alessandro Milan, alle 8:20 in Attenti a Noi Due.